La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Piancastagnaio è un piccolo paese arrampicato sulle colline in provincia di Siena. È qui che nasce Sergio Staino l'8 giugno del 1940. Il 10 giugno dello stesso anno Benito Mussolini dichiara l'entrata in guerra dell'Italia. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria, delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Staino e la madre vivranno, come molti italiani, le difficoltà e le brutalità di un conflitto feroce. Nel disegno, Staino, ancora bambino, e la madre troveranno conforto e quella sensazione segnerà la vita di entrambi. Io i miei primi disegni li ho fatti in quelle terre perché ho cominciato a disegnare all'età di 3 anni. E mia mamma era in questo paesino sola, il mio padre era in guerra, lei era giovanissima con me e a 3 anni mi insegnava e giocava con me a ricopiare cavalli, cavalieri e regine dai libri delle favole. E da lì ho preso questa idea del disegno come gioco, come sogno, ma anche come sicurezza, insomma. Io non lo sapevo, ma per tutta l'adolescenza, anche oltre, quando avevo un'angoscia, quando avevo qualcosa che mi teneva in tensione, dovevo disegnare un foglio, una qualunque superficie, una qualunque punta tracciante, appena disegnavo la calma, la cosa, il ventre materno, ritornavo lì, ritornavo in quelle sicurezze. Ecco, disegnatori così, non per doti extrasensoriali. E come ha cominciato? Con la matita, con i colori, come... No, allora il paesino era molto povero, noi eravamo poveri, già avere una matita e della carta, magari carta gialla dei bottegai. Da questo punto di vista mi sono mai tirato indietro di fronte al materiale su cui scrivere, fosse un muro, fosse della carta grossa, fosse carta igienica, disegno ovunque. C'è una disponibilità proprio al tracciare delle linee. Come mi dicono tutti i fiorentini classici, ho una prevalenza netta sulla linea rispetto al colore, questo sì. Ecco, e come questa cosa poi si è trasformata in un mestiere, in un lavoro? Molto tardi. È una cosa che mi ha accompagnato tutta la vita fino alle soglie dei 40 anni, quindi della maturità, proprio maturità. Senza mai pensare che questa cosa potesse diventare l'elemento che mi dava da vivere, insomma. Ecco, me lo sono accorto in un momento di crisi alla fine degli 39 anni, in cui per disperazione ho fatto una striscia sperando di da una parte di liberarmi di tutte le angosce che avevo dentro, raccontandole in modo divertente, e dall'altro di avere un modo per avere uno stipendio. E nel giro di pochi mesi, grazie al resto del buono a Linus, mi ha cambiato la vita, insomma. Ho iniziato tremante questa avventura dicendo chissà come va, dopo un anno ero già un grande disegnatore riconosciuto, richiesto, pubblicato. E l'approccio alla satira come è arrivato invece? L'approccio alla satira è partito subito, perché io ho iniziato sull'onda anche di una grande delusione politica, che sono stati 10 anni appassionati, spesi nelle organizzazioni filocinesi, giovani marxisti-leninisti. E quando si è visto che l'inganno in cui eravamo caduti, molto per colpa nostra, molto per colpa anche dei cinesi, avevo una delusione tale che da buon toscano, devo dire, ho girato questa tristezza in una forma ironica e soprattutto autoironica. Ed è stata la carta vincente, non lo sapevo, ma se Bobo avesse solo criticato gli avversari e non si fosse guardato dentro cominciando a criticare se stesso, non sarebbe stato Bobo e non avrebbe avuto il successo che ha avuto. Ecco, l'anno esatto di nascita di Bobo qual è? 10 ottobre del 79, è stato proprio un giorno preciso in cui mi sono messo al tavolino, ho detto a mia moglie prova a fare delle strisce per vedere se riesco a fare delle cose divertenti, perché mi piaceva appunto disegnare, poi ero un gran lettore di fumetti. Dico, mi do un anno di tempo, pensavo di pubblicare sul giornaletto di Scandicci, l'Eco di Scandicci, l'organismo, per vedere come funzionava la cosa. Poi gli amici ridevano così tanto di fronte a queste cose che più ridevano e più alzavo gli obiettivi. Ho pensato alla Nazione, poi a Paese Sera e poi ho detto ma perché non tento Linus, che era il tempio della satira, del disegno, del fumetto, e così ho fatto. Ho mandato a loro nel giro di 2 giorni, Del Buono mi ha chiamato, vieni subito a Milano, facciamo il contratto. Devo dire che per molte settimane ho pensato di sognare. Questa dunque è la storia di Staino, fumettista toscano pieno di ideali e una forte passione politica che non smetterà d'essere anche maestro nel leggere l'Italia di oggi. Ma la cosa che veramente mi dà più pena e mi preoccupa di più è la disgregazione politica e il cinismo che imperversa e quindi l'individualismo. Questo lo vedo anche nei miei figli, lo vedo nei loro amici, insomma anche persone colte, con possibilità così di leggere, di informarsi, hanno perso completamente l'idea di far parte di strati sociali da costruire e mettere insieme. Noi avevamo la sensazione nettissima che le ingiustizie che ci colpivano, ed erano tante da noi giovani, non colpivano noi come individuo, ma noi come membro di uno strato sociale. E quindi questo ci dava la forza di unirci e tentare una risposta, insomma, collettivizzava l'ingiustizia. Oggi tutto il sistema concorre a far credere ai singoli, soprattutto ai giovani, che se non sfondano nella vita è perché sono stupidi loro, sono loro che non hanno grinta, e questo provoca tanta sconcerto, tristezza individuale che impedisce il cambiamento, la forza del cambiamento. Io vorrei tanto che soprattutto i sindaci, le città, cominciassero a dare le città in mano ai ragazzi, ma questo vuol cominciare da bambini, aprirli, portarli fuori dalle scuole, farli conoscere la città, farli vedere poi in Toscana soprattutto abbiamo storia, cultura, partecipazione. Altrimenti se arriva a 20 anni uno sperduto, non sa che fare, l'unica cosa che riesce a pensare è scappare all'estero, ed è una tragedia questa. Però devo dire, se non si ricuce questo tessuto sociale, è solo con la cultura lo si può fare. Ecco. Quando sento dire anche come l'attuale ministro della cultura che la cultura è il petrolio dell'Italia, non è vero, la cultura deve essere l'aria, l'ossigeno, l'acqua, un bene comune che bisogna diffondere e far sì che ci faccia crescere una partecipazione civile, che è l'unica garanzia vera che abbiamo perché nel futuro rimanga una democrazia e un lavoro e non si finisca in questi populismi terribili che invece spuntano da ogni parte. La prima volta. Dalle belle città date al nemico, fuggimmo un dì sull'aride montagne, cercando libertà fra rupe rupe. Classe 1940, nato in un piccolo paese del Senese, Sergio Staino crescerà tra la brutalità della guerra, le difficoltà del vivere quotidiano. Il paese di Staino, un piccolo paese del Senese, sarà anche uno tra i più attivi contro il nazifascismo. Staino verrà allevato in questo clima ed educato ai valori della resistenza. La madre, una giovane ragazza toscana, insegnerà al figlio l'amore per il disegno. Ho cominciato a disegnare all'età di 3 anni. E mia mamma era in questo paesino sola, mio padre era in guerra, lei era giovanissima con me. e a 3 anni mi insegnava e giocava con me a ricopiare cavalli, cavalieri e regine dai libri delle favole. E da lì ho preso questa idea del disegno come gioco, come sogno, ma anche come sicurezza, insomma. Io non lo sapevo, ma per tutta l'adolescenza, anche oltre, quando avevo un'angoscia, quando avevo qualcosa che mi teneva in tensione, dovevo disegnare un foglio, una qualunque superficie, una qualunque punta tracciante. Appena disegnavo, la calma, la cosa, il ventre materno, ritornavo lì, ritornavo in quelle sicurezze. Una passione politica forte, il divertimento di disegnare personaggi per il gusto di far ridere gli amici. Staino ancora non sa che da quel gioco nascerà un lavoro. La svolta, il momento in cui tutto inizia, arriva tardi, è il 1979, quando Staino viene pubblicato su Linus. Staino ha quasi 40 anni. Ce ne sono tanti giovani che stanno lavorando, gli ho detto su media diversi. Macox è uno di questi sicuramente, Zero Calcare, ma poi ci sono quelli che lavorano sul video, il terzo mistero della satira, che fanno dei video meravigliosi, insomma. Ecco, io se avessi 20-30 anni lavorerei su quel terreno anch'io. Io ormai sono un testimone della matita e finisco lì. Ecco, ma come si diversificano a livello di linguaggio una vignetta disegnata e invece qualcosa che va in rete? Sì, il meccanismo è identico. Io, le stesse cose si possono fare disegnate, si possono fare scritte, leggi Gramellini ad esempio, sono delle cose divertentissime giorno per giorno. È l'intelligenza di trovare sempre un punto di vista non scontato, non comune, ecco. Quando un fatto come questo che dicevo del trattore ricostruito da carro armato casalingo ha scatenato tutta la satira, non solo la satira ma anche i titoli dei giornali, l'autore satirico deve riuscire in questa situazione in cui sa che tutti stanno lavorando su quel terreno, di trovare quell'elemento che differenzia il suo intervento. Ecco. Fatto quello, lo puoi fare in tutte le forme, il disegno deve supportare poi la battuta che tu fai disegnata, il montaggio del video, le riprese deve supportare quello, ma come meccanismo. Quella di Staino è una carriera lunga, sofferta, bellissima, una carriera che è possibile ammirare in una mostra antologica che resterà a Siena fino alla fine di quest'anno. Questo spazio è molto grande, io all'inizio pensavo di mettere solo le ultime cose, mi hanno chiesto no, ma facciamo proprio un'antologica, ed è interessante perché in queste sale si percorre proprio anche visivamente, ho notato proprio l'evoluzione del mio segno. Il mio segno che ha avuto varie fasi nella mia vita, perché prima io quando ero giovane disegnavo tranquillamente, odiavo quasi il mio disegno perché era troppo facile disegnare, era troppo comune, troppo standard. Vicino ai 40 anni, 37 anni, ho avuto la prima rottura di retina e ho pensato di non vederci più. Poi piano piano ho cominciato a rivedere e il segno è cambiato, è diventato un segno sofferto, conquistato, mi è toccato quasi ricominciare a disegnare. E se si vedono i primi disegni di Bobo, questo segno è un segno non tremolante, non indeciso, è deciso, però è sofferto, è un segno, lo vedete, è molto, molto, molto conquistato millimetro per millimetro. Dopodiché invece comincia ad avere più sicurezza, la maga comincia a muoversi l'inquadratura, fino a quando ho fatto il film, alla fine degli anni 80, Cavalli si nasce, che come film non ha avuto molto successo, ma però in me ha cambiato profondamente il senso dell'inquadratura, del montaggio, e allora ho messo in scena, ho messo in mostra le storie fatte dopo il film, e lì si vede moltissimo questa inquadrature quasi da cinemascope, una ricchezza di particolari, di movimenti, con i dolly, con le sequenze, con le carrellate, fino all'anno 2000 in cui la cecità è diventata talmente presente che non sono più riuscito a disegnare con la penna e la carta tranquillamente e ho dovuto passare al computer. Il computer ci era arrivato con tristezza come un ripiego e invece ho scoperto un mondo, ho scoperto che tutte queste cose digitali, pur essendo programmate fino all'infinitesimo, risentono sempre dei bioritmi della mano dell'autore e lavorano in maniera diversa a seconda del giorno, di come ti senti, non solo, ma poi ti permettono di entrare in altri mondi, in altre immagini del passato, immagini contemporanee, rapirle, rimaneggiarle, entrare dentro. E allora c'è quest'ultima sezione dedicata al digitale che a mio avviso è un piccolo germe del futuro che ci aspetta, cioè di un'arte che sarà sempre più un'arte, anche questa come la poesia, la letteratura, il film, un'arte collettiva fatta da tante persone e con questo mondo virtuale che ci apre tanti orizzonti. Infatti leggo appunto anche nel comunicato che lei ha detto che ciò che vorrebbe che più emergesse da questa mostra non fosse tanto il retrospettivo, ma alcuni piccoli germi di futuro, sì, ha detto. Sì, sì. Sì, credo che ci siano, si possano trovare. E questo arco trionfale attraverso il quale si entra alla mostra sormontato da un Bobo Rodin, come è nata questa idea? Questo è un lavoro dell'83, quindi molto vecchio, che feci per la porta principale dello spazio della Festa Nazionale dell'Unità a Reggio Emilia. E fu interessante perché, insomma, in genere le feste dell'Unità fino agli anni 80 erano feste di lotta in cui c'erano tutte le bandiere rosse, c'era Togliatti, c'era Berlinguer, c'erano tutti i riferimenti storici. L'idea di avere offerto a me di progettare la porta d'ingresso era chiaramente una voglia così anche di autoironia e io su quello ho lavorato, cioè un bobo Rodin, il pensatore, perché credo sia veramente l'uomo moderno nato nell'Ottocento, insomma con l'industrializzazione, ed è l'intellettuale dubbioso. Io credo che il dubbio debba essere la base sempre di tutti i lavori creativi che facciamo, insomma, per mettere sempre in dubbio, perché la verità non ce l'hai in tasca. E questo Bobo è, credo sia proprio un simbolo di questo dubbio laico dell'intelligenza, e quindi è quello che sta in alto. Tutto il resto sono i suoi miti, insomma c'è tutto, le contraddizioni, ci sono i guerriglieri di Cuba, latinoamericani da una parte, c'è l'operaismo sovietico da quell'altra, però c'è anche Marx e c'è Marilyn Monroe, ma c'è anche la moglie che fa ginnastica per mantenersi snella e giovane, che Bobo adora, ma poi c'è anche i bambini, la famiglia. È un coacervo di miti quotidiani e storici che si compongono a formare un arco, che è comunque un arco, una satira di arco. Ma essere toscano l'ha aiutata ad essere più satirico? Sì, ce l'abbiamo nel sangue, ce lo passano proprio con latte materno. Mia mamma è una satirica che ancora oggi, ma quasi senza accorgere, siamo tutti così, capito? Lei quando nel 48 andò a confessarsi, trovò il pretino dell'Azione Cattolica al posto del suo solito parroco, perché li avevano precettati, e invece di chiedergli che peccato aveva fatto, gli chiese per chi avrebbe votato alle prossime elezioni, quelle del 18 aprile. E mia mamma, giovane, arrossì, disse: ma io so che il voto è segreto, che sì, è segreto per gli uomini, ma non per Dio, lei mi deve dire, perché se vota per il blocco della sinistra io non posso darle la soluzione. No, gli ha fatto lei. No, vedi il Papa, l'enciclica del Papa che dice, quindi non gliela posso dare. Lei ha pensato un po', ha raccolto le sue forze e in toscano perfetto gli ha detto: sa come si fa, la se la tiene, si è alzata e è andata via. Ecco, questa è un'azione, è una risposta satirica incredibile a mio avviso. Con una mamma così, come fai a non vedere la vita in modo divertente e ironico. La prima volta termina qua. Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi rinnovo l'appuntamento sempre domenica, sempre alle 13.30. Potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it o riascoltarci in podcast. Un ringraziamento speciale questa settimana ad Adriana Fracchia per aver realizzato l'intervista a Staino e a Fabio Cantadori in regia. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli.